Capitolo 5. Comportamentismo. Né le ultime scoperte né le teorie che ne risultano possono spiegare pienamente il mistero della vita e il suo sviluppo, ma servono a presentare e illustrare i fatti e ci permettono di osservare come ha luogo la crescita. Uno dei fatti che abbiamo potuto constatare è che il piano di costruzione è unico e tutti i tipi di vita animale lo seguono. Il piano può essere materialmente riconosciuto nell'embrione. Possiamo seguirlo nello studio della psicologia infantile e anche riconoscerlo nella società. È significativo il fatto che nella prima fase gli embrioni animali sono tutti uguali, siano essi di uomo, coniglio o lucertola. Per realizzarsi, i vertebrati devono passare attraverso le stesse fasi, ma quando lo sviluppo embrionale è completo, la differenza è immensa. Si può asserire con la stessa sicurezza che il neonato è un embrione psichico, sicché alla nascita tutti i bambini sono uguali e richiedono lo stesso trattamento, ossia la stessa educazione, durante la fase di crescita embrionale e di incarnazione mentale. Qualsiasi tipo di uomo sia destinato a risultare da questo lavorio del bambino un genio, un contadino, un santo o un criminale, ognuno deve passare attraverso queste fasi di incarnazione. Di conseguenza, nei primi anni di vita, l'educazione deve essere uguale per tutti e deve essere dettata dalla natura stessa, che infonde certe esigenze nell'essere che cresce. È vero che in seguito sorgono negli individui notevoli differenze, ma non ne siamo noi la causa, né potremmo provocarle. Esiste una individualità interiore, un ego che si sviluppa spontaneamente, indipendentemente da noi. L'unica cosa che noi possiamo fare è aiutare colui o colei che è potenzialmente un genio, un generale, un artista, a realizzare se stesso o se stessa eliminando gli ostacoli che gli si oppongono sulla via della realizzazione. Abbiamo constatato l'esistenza di centri di sensibilità intorno ai quali si formano i vari organi e abbiamo visto che poi intervengono i due sistemi circolatorio e nervoso a connetterli e unirli. Ma la scienza non può spiegare come e perché venga al mondo un essere vivente libero e autonomo, diverso da tutti gli altri, con un suo proprio carattere. Nel 1930 a Filadelfia fu fatta una scoperta biologica che contraddiceva nettamente le teorie correnti. Si scoprì che il centro nervoso visivo nel cervello si forma prima del nervo ottico e molto tempo prima dell'occhio. Se ne trasse la conclusione che negli animali la forma psichica precede quella fisica e di conseguenza gli istinti di ogni animale e le sue abitudini naturali sono già fissate prima che si formi l'organo destinato ad esprimerle. Se questa parte psichica è preesistente, ciò significa che l'organo fisico porta a termine la propria costruzione plasmandosi secondo le esigenze della psiche, degli istinti. Gli organi e gli arti degli animali, a qualunque specie essi appartengano, sono fatti in modo da essere i più adatti ad esprimere quegli istinti. Questa teoria è nota come behaviorismo o comportamentismo ed è esattamente il contrario della vecchia concezione secondo cui gli animali assumerebbero determinate abitudini per adattarsi all'ambiente. Si riteneva che la volontà dell'adulto provocasse le necessarie modifiche nella struttura somatica durante la lotta per la sopravvivenza e che gradualmente, attraverso successive generazioni, si raggiungesse l'adattamento perfetto. La nuova teoria non nega completamente questo punto di vista, ma pone al centro di tutto le abitudini istintive o comportamento dell'animale. I suoi sforzi di adattamento possono riuscire solo se avvengono nei limiti del suo proprio comportamento. Si può citare come esempio il caso del bue, possente animale, robusto e ben costruito. È possibile seguirne l'evoluzione nella storia geologica del mondo. Fa la sua comparsa quando la terra è già rivestita di rigogliosa vegetazione e c'è da domandarsi perché questo animale abbia scelto di cibarsi solo di erba, il più indigesto di tutti i cibi, che ha richiesto lo sviluppo di ben 4 stomaci. Se fosse stata solo una questione di sopravvivenza, sarebbe stato più facile mangiare qualche cosa d'altro che si trovava in abbondanza. Da allora sono passati milioni di anni, ma noi vediamo ancora che il bue, allo stato naturale, si ciba soltanto di erba. Se si osserva più da vicino, si vede come il bue bruchi l'erba alla radice, senza mai sradicare la pianta. È come se sapesse che l'erba deve essere tagliata alle radici perché possa sviluppare steli sotterranei, altrimenti va presto in seme e muore. E ancora, l'erba è di enorme importanza per la preservazione delle altre forme di vita vegetale, perché cementa insieme le particelle di sabbia e terreno che altrimenti il vento spazzerebbe via. Ma non solo stabilizza il terreno, lo fertilizza anche, preparandolo per altre forme di vegetazione. Tale è l'importanza dell'erba nell'economia della natura. Ma due cose, oltre al taglio, sono necessarie perché cresca. L'una è il concime, l'altra è la pressione sotto un grosso peso. E quale macchina agricola potrebbe eseguire queste tre funzioni meglio del bue? E per di più, questa meravigliosa macchina ci dà il latte, oltre che favorire la crescita dell'erba e tutta l'economia della superficie terrestre. Così il comportamento del bue appare espressamente designato per gli scopi della natura, proprio come quello dei corvi e degli avvoltoi è destinato a un efficiente servizio in un altro campo, quello dello sgombero dei rifiuti. Questi esempi riguardano la scelta del cibo da parte degli animali e la conclusione, giustificata da centinaia di casi simili, è questa, che gli animali non mangiano soltanto per soddisfare un loro bisogno, ma per compiere una missione ad essi prescritta dal loro comportamento nell'interesse dell'armonia del creato, che risulta dalla collaborazione di tutti gli esseri, animati e inanimati. Nota: è qui esemplificato il concetto di piano cosmico e poi di educazione cosmica. Consiste nell'illustrare tanto la stretta interrelazione fra natura, vita e società umana, quanto il compito cosmico di ciascuno per raggiungere un armonioso mantenimento della vita e per promuovere lo sviluppo delle condizioni che ne rendono possibile l'evoluzione. Altre creature mangiano in misura così smodata che non può trattarsi solo della necessità di mantenersi in vita. Non mangiano per vivere, ma vivono per mangiare. Ne abbiamo un esempio nel lombrico, che mangia quotidianamente una quantità di terra pari a 200 volte il volume del suo corpo. Darwin per primo osservò che senza il lombrico la terra sarebbe meno fertile. Un altro esempio familiare è quello delle api, che lavorano alla fecondazione dei fiori. E nel quadro di questo comportamentismo cominciamo a vedere come gli animali si sacrifichino nell'interesse di altre forme di vita invece di mangiare semplicemente per la conservazione della propria esistenza. Parimenti si trovano nell'oceano degli organismi unicellulari che agiscono come filtri, liberando l'acqua da certi sali benefici. E nel compiere questa funzione bevono tali prodigiose quantità di acqua marina che in proporzione della loro grandezza equivarrebbe per l'uomo al consumo di circa 5 litri per secondo durante tutta la vita. Questa finalità superiore che pone gli esseri viventi in rapporto con la terra e la sua economia vitale non potrebbe mai rivelarsi alla coscienza degli animali. Eppure dalla loro opera dipendono forme superiori di vita. La stessa superficie della terra, la purezza dell'aria e dell'acqua. Tutto questo rivela l'esistenza di un piano prestabilito, al cui fine sono formati gli organi, e dimostra come lo scopo della vita sia quello di obbedire all'occulto comando che armonizza il tutto e tende a creare un mondo migliore. Il mondo non è stato creato per il nostro piacere, piuttosto noi siamo stati creati per evolvere il cosmo. Studiando il genere umano e paragonandolo con altre specie animali, si riscontrano talune differenze, la più importante delle quali consiste nel fatto che all'umanità non è stato assegnato un tipo speciale di movimento né una determinata sede. Di tutti gli animali, l'uomo è il più capace di adattarsi a qualsiasi clima, tropicale o artico, deserto o giungla. L'uomo solo è libero di andare dove vuole ed è anche in grado di compiere i più diversi movimenti e con le sue mani può fare cose che nessun altro animale è mai riuscito ad eseguire. Sembra che il comportamento umano non sia limitato da alcuna barriera. L'uomo è libero. Possiede il linguaggio più vario. Nel campo dei movimenti può camminare, correre, arrampicarsi, strisciare. È capace di movimenti artificiali nella danza e sa nuotare come un pesce. Nel bambino o nella bambina, tuttavia, al momento della nascita, nessuna di queste qualità è presente. Ognuna deve essere conquistata durante la prima infanzia. Quell'essere umano che nasce quasi paralizzato, senza possibilità di muoversi, mediante l'esercizio può imparare a camminare, a correre, ad arrampicarsi, come gli altri animali, ma deve farlo con le sue forze sole. Il bambino o la bambina non solo acquista tutte le facoltà umane, assai più varie e numerose di quelle degli altri animali, ma deve anche adattare il proprio essere fisico e psichico, che durante l'infanzia egli stesso va costruendo, alle condizioni climatiche ed ecologiche in cui dovrà vivere e alle esigenze di una civiltà che si va facendo sempre più complessa. Se il comportamento degli uomini fosse fisso, come lo è quello degli animali, essi non sarebbero capaci di adattarsi a condizioni nuove che cambiano ad ogni generazione. Il compito dell'adattamento pare sia assegnato dalla natura alle attività dell'infanzia. L'adulto non è adattabile. L'adulto considera il suo paese come il luogo più desiderabile della terra, per quanti svantaggi possa avere, e non riuscirà mai a padroneggiare perfettamente i suoni di una lingua straniera, anche se è molto più semplice della sua lingua materna, che egli ha così facilmente appreso nell'infanzia. Gli adulti possono ammirare un ambiente e ricordarlo, ma il bambino ha la capacità di assorbirlo inconsciamente e farne una parte della sua psiche. Così facendo, incarna in se stesso le cose che vede e ode, come il linguaggio, operando delle vere e proprie trasformazioni. Questo tipo di memoria è chiamata dagli psicologi l'amneme. E il suo compito è quello di costruire per l'individuo un comportamento adatto non soltanto al momento e al luogo, ma anche alla mentalità della società in cui vive. Gli adulti trovano in sé sentimenti e pregiudizi, soprattutto di natura religiosa, che forse la loro ragione si rifiuta di riconoscere, ma non possono mai liberarsene completamente, poiché quei preconcetti sono una parte di loro stessi, li hanno nel sangue, come volgarmente si dice. Ne consegue che, se vogliamo modificare i costumi e le abitudini di un paese, o se vogliamo accentuare più vigorosamente le caratteristiche di un popolo, dobbiamo agire sul fanciullo, perché ben poco si potrebbe fare in questa direzione attraverso gli adulti. Per cambiare una generazione o una nazione, per esercitarvi un'influenza verso il bene o il male, per ridestare la religione o sviluppare la cultura, dobbiamo guardare al bambino, che è onnipotente. La verità di questo assioma è stata dimostrata dai nazisti e dai fascisti, che hanno cambiato il carattere di interi popoli, lavorando sui fanciulli. Capitolo 6. Educazione dalla nascita. Il neonato è ben lontano dal pieno sviluppo, anche fisicamente è incompleto. I piedi destinati a camminare sulla terra e forse a percorrere tutto il mondo sono ancora senza ossa, cartilaginei. Il cranio, che racchiude il cervello e dovrebbe essere nella più robusta difesa, non ha ancora tutte le sue ossa sviluppate. E, cosa ancora più importante, il sistema nervoso non è completo, sicché manca una direzione centrale che colleghi i vari organi e di conseguenza manca la possibilità del movimento. Mentre i neonati di altri animali sanno muoversi e camminare quasi subito dopo la nascita. In realtà si deve pensare che la vita embrionale del bambino si estende sia prima che dopo la nascita. Questa vita è interrotta da un grande avvenimento, l'avventura della nascita, in cui egli piomba in un ambiente nuovo. Il cambiamento in sé è spaventoso, come se uno passasse dalla Terra alla Luna. Ma non è tutto. Per compiere il grande passo, il bambino deve affrontare un tremendo sforzo fisico. Quando nasce un bambino, la gente di solito si preoccupa solo della madre e delle sue difficoltà, ma il bambino attraversa una prova ancora più dura, soprattutto se si considera che non è ancora un essere completo, benché dotato di vita psichica. Non possiede facoltà psichiche perché deve prima crearsele, insomma, questo embrione psichico, che è anche fisicamente incompleto, deve crearsi le sue proprie capacità. Questo essere che nasce impotente, incapace di movimento, deve essere dotato di un comportamento che gli insegni a muoversi. Quegli istinti che in altri animali sembrano destarsi alla nascita, non appena l'animale viene in contatto col suo ambiente, nell'uomo devono essere costruiti dall'embrione psichico, nello stesso tempo in cui esso costruisce le facoltà a cui il movimento corrisponde. Mentre tutto questo avviene, la parte fisica dell'embrione sta portando a termine il proprio sviluppo, il sistema nervoso si completa e il cranio si ossifica. I pulcini, quando escono dall'uovo, aspettano solo che la chioccia mostri loro come beccare il cibo e cominciano immediatamente a comportarsi come gli altri pulcini. Questo è il loro comportamento attuale. Lo è stato nelle precedenti generazioni ed è presumibile che lo sarà sempre. Ma l'uomo deve prima sviluppare la sua psiche e questo deve avvenire in accordo con l'ambiente e con le mutevoli condizioni di una società umana in continuo sviluppo. Così la natura ha preso la precauzione di mantenere il corpo inerte, mentre tanto lo scheletro che il sistema nervoso danno la priorità allo sviluppo dell'intelligenza. Se la vita psichica deve assimilare e addirittura incarnare l'ambiente, l'intelligenza deve anzitutto osservarlo e studiarlo. Deve trarne il massimo numero di impressioni, proprio come l'embrione fisico incomincia con l'accumulare cellule prima di accingersi a costruire con esse i suoi organi speciali. Così, il primo periodo della vita è stato destinato a immagazzinare impressioni dall'ambiente ed è perciò il periodo di maggiore attività psichica, attività che consiste nell'assorbimento di tutto ciò che l'ambiente presenta. Nel secondo anno di vita, il fisico del bambino è vicino a completarsi e i movimenti cominciano a diventare sicuri e ben determinati. In passato si pensava che il bambino piccolo non avesse una vita psichica, mentre oggi ci rendiamo conto che l'unica parte di lui che è attiva durante il primo anno di età è il cervello. La principale caratteristica del bambino è l'intelligenza, a differenza degli altri animali, i quali devono solo attendere il ridestarsi degli istinti che li indirizzeranno verso il comportamento loro assegnato. L'intelligenza del bambino o della bambina deve cogliere e comprendere il presente di una vita in evoluzione, di una civiltà che risale a centinaia di migliaia di anni fa e che ha davanti a sé un avvenire di milioni di anni. Un presente che non ha limiti né nel passato né nel futuro e che non è mai lo stesso neanche per un momento. I suoi aspetti sono infiniti, mentre per gli altri vi è solo un aspetto che è sempre fisso. Certo, questa psiche umana deve pur cominciare in qualche misteriosa maniera, ed è dimostrato che ha inizio prima della nascita, poiché nella mente del neonato troviamo capacità potenziali così spiccate da poter creare qualsiasi facoltà e adattare l'uomo a qualsiasi condizione. Gli psicologi moderni hanno rivolto un vivissimo interesse a ciò che chiamano la difficile avventura della nascita. E concludono che il bambino o la bambina deve subire un violento trauma per il terrore. Uno dei termini scientifici usati in psicologia è il terrore della nascita. Non si tratta di un terrore consapevole, ma senza dubbio il neonato o la neonata può sentire la paura, per esempio quando viene calato troppo rapidamente nel bagno, o quando è esposto a una luce troppo forte, o sballottato in modo insolito. La natura dà a una semplice madre l'istinto di tenersi il bambino stretto vicino al corpo, poiché non le sono rimaste molte forze, se ne sta ferma e quieta per conto suo e insieme procura la quiete necessaria alla figlioletto o al figlioletto, lo riscalda col suo calore e lo protegge da troppe o troppo violente impressioni. Le gatte nascondono i piccoli in un angolo buio e li difendono gelosamente da qualsiasi contatto estraneo. Ma per lo più le madri umane hanno in gran parte perduto i loro istinti naturali. Non appena il bimbo è nato, qualcuno viene a lavarlo e a vestirlo, lo porta in piena luce per vedere il colore degli occhi, esponendolo per ignoranza ad altri traumi e ad altre paure. Le conseguenze di questo terrore della nascita si riconoscono oggi in taluni difetti del carattere, che si evidenziano durante l'ulteriore sviluppo del bambino. Si verifica un'alterazione psichica per cui il bambino, invece di crescere normalmente, segue una via sbagliata. I difetti così provocati sono compresi sotto il termine di regressioni psichiche e sono caratterizzati da un atteggiamento di rifiuto della vita. Sembra quasi che questi esseri rimangano attaccati a qualcosa che esisteva prima della nascita e provino repulsione per il mondo. Lunghe ore di sonno per il neonato si considerano normali, ma possono risultare troppo lunghe per essere normali se rivelano un fenomeno di regressione. Altri sintomi sono l'abitudine di svegliarsi piangendo e la frequenza degli incubi. Inoltre, l'attaccamento eccessivo a qualcuno, generalmente la madre, come per il terrore di essere lasciati soli. Questo è il tipo di bambino che piange facilmente, che ha sempre bisogno di qualcuno che lo aiuti, che tende a restare ozioso, depresso, timido. È evidente che tali individui sono inferiori agli altri nelle lotte della vita. Non sarà loro destino avere gioia, coraggio e una normale felicità. Questa è la terribile risposta della psiche subconscia. Noi dimentichiamo con la memoria conscia, ma le impressioni incise nella mneme rimangono come tratti caratteristici dell'individuo. In questo si cela un grave pericolo per l'umanità. Il bambino che non riceve cure adeguate si vendica della società, sviluppando da sé un individuo debole che sarà un ostacolo al progresso della civiltà. In contrasto con questi tipi regressivi, il bambino normale presenta spiccate tendenze all'autonomia. Lo sviluppo avviene con la conquista di sempre maggiore indipendenza, superando ogni ostacolo che sbarri il cammino. La forza vitale che dà questo impulso è chiamata ormè ed è paragonabile alla forza della volontà nell'adulto, la quale tuttavia è assai più esigua ed è limitata ad un singolo individuo, mentre la ormè appartiene alla vita in generale ed è una forza divina che lavora per l'evoluzione. Nel bambino che cresce normalmente si manifesta con l'entusiasmo, la felicità, la gioia di vivere. Alla nascita egli si libera da una prigione, il corpo della madre, e si rende indipendente dalle funzioni fisiologiche materne. Ha in sé l'impulso per affrontare e conquistare l'ambiente, ma l'ambiente deve apparirgli attraente. Ciò che egli prova può essere non impropriamente chiamato amore per l'ambiente che lo circonda. I primi organi che cominciano a funzionare sono gli organi di senso e il bambino normale percepisce tutto, anche se non distingue ancora suono da suono, oggetto da oggetto. Dapprima accoglie in sé il mondo, poi lo analizza. All'età di 6 mesi si presentano alcuni fenomeni che sono rivelatori di crescita normale. Vi sono dei cambiamenti fisiologici. Lo stomaco comincia a secernere un acido necessario alla digestione. E compare il primo dentino. È questo un passo importante verso l'indipendenza. Verso quest'epoca comincia anche a balbettare la prima sillaba. Pone la prima pietra del grande edificio che si svilupperà nel linguaggio. Ben presto impara ad esprimersi e non è più costretto ad aspettare che altri indovinino i suoi bisogni. E anche questa è una grande conquista verso l'indipendenza. Qualche tempo dopo, all'età di un anno, comincia a camminare, liberandosi così da un'altra prigione. Attraverso queste fasi successive si diviene liberi, ma finora non si tratta di una questione di volontà. L'indipendenza è un dono di natura che conduce l'uomo alla libertà. Imparare a camminare è un passo importante e molto complesso. Eppure si compie nel primo anno di vita, insieme alle altre conquiste del linguaggio e dell'orientamento. Gli animali inferiori camminano appena nati, ma costruire l'uomo è opera più raffinata e richiede più tempo. La capacità di star ritti sulle 2 gambe e di camminare in posizione eretta dipende dallo sviluppo di una parte del cervello, chiamato cerebellum o cervelletto, che comincia a crescere rapidamente a 6 mesi e continua a svilupparsi a ritmo accelerato fino ai 14 o 15 mesi. In perfetto parallelismo con lo sviluppo cerebellare, il bambino riesce a stare seduto a 6 mesi, comincia a muoversi strisciando a 9, sta in piedi a 10 e muove i primi passi fra i 12 e i 13 mesi, finché a 15 mesi cammina con sicurezza. Un secondo fattore in questa conquista del movimento è il completarsi di certi nervi spinali lungo i quali viaggiano i messaggi del cervelletto diretti ai muscoli. Infine, vediamo consolidarsi in questo periodo la struttura ossea del piede e quella del cranio, destinata a proteggere il cervello nell'eventualità di una caduta. Nessuna educazione può insegnare al bambino a camminare prima del tempo. Qui la natura stessa comanda e deve essere obbedita. Inoltre sarebbe stolto cercare di tenere fermo un bambino che ha già imparato a camminare e a correre, perché la natura vuole che ogni organo sviluppato sia tenuto in uso. Così, non appena compare il linguaggio, il bambino comincia a chiacchierare ed è difficilissimo farlo stare zitto. Se gli si impedisse di parlare e camminare, si produrrebbe un arresto nel suo sviluppo, sicché è indispensabile lasciarlo libero di funzionare, di usare la sua indipendenza. I psicologi e le psicologhe hanno constatato che in ogni individuo il comportamento si consolida attraverso le esperienze fatte nell'ambiente. Perciò il primo compito dell'educazione è quello di fornire un ambiente che permetta al bambino di sviluppare le funzioni dategli dalla natura. Anzi, aiuti e promuova questo sviluppo. Non si tratta semplicemente di compiacere il bambino, ma di cooperare con un comandamento della natura. Osservando il fanciullo si riconosce che egli di regola desidera agire indipendentemente, vuole trasportare oggetti, vestirsi e svestirsi da solo, portarsi da solo il cibo alla bocca. E non sono i suggerimenti degli adulti che lo spingono a farlo, al contrario, questo suo impulso è così impetuoso che i nostri sforzi tendono in generale a trattenerlo. Ma così facendo, noi combattiamo contro la natura, non contro la volontà del bambino. In seguito egli mostrerà la tendenza a sviluppare la mente attraverso le sue proprie esperienze e così comincerà a cercare la ragione delle cose. Queste non sono teorie, ma chiari fatti naturali rivelati e confermati dall'osservazione. Noi diciamo che la società deve rendere completa la libertà del bambino, deve assicurarne l'indipendenza, ma questo ideale di libertà e indipendenza non deve essere confuso con le vaghe concezioni degli adulti che usano queste parole. In realtà, la maggior parte della gente ha un'idea molto meschina di ciò che significhi libertà. La natura dà vita dando libertà e indipendenza, ma insieme pone leggi ben determinate, adeguate al tempo e alle sue speciali esigenze. La natura fa della libertà una legge di vita. Pone il dilemma: essere liberi o morire. La natura ora ci aiuta a interpretare la nostra vita sociale attraverso l'osservazione del bambino, che ci mostra la realtà delle cose. L'indipendenza non è qualcosa di statico, è una continua conquista. È l'acquisizione, attraverso un lavorio infaticabile, non solo della libertà, ma della forza e dell'autoperfezione. Dando al bambino la libertà e l'indipendenza, noi liberiamo un lavoratore che è spinto da una forza interiore ad agire e che non può vivere se non per la sua attività, perché questa è la forma di esistenza di tutti gli esseri viventi. La vita è attività e solo attraverso l'attività si può cercare e trovare la perfezione. Alcune aspirazioni sociali che ci vengono dall'esperienza delle generazioni passate e ci presentano un ideale di poche ore di lavoro con altra gente che lavora per noi, sono naturali caratteristiche di un bambino degenerato che tende a sfuggire alla vita. La cura di questi bambini degenerati e dei fenomeni regressivi che ritardano lo sviluppo normale o ne deviano il corso costituisce un problema educativo particolare, poiché un bambino di questo tipo non ha amore per l'ambiente e trova troppo difficile affrontare e superare gli ostacoli che si frappongono alla sua conquista. È necessario, in primo luogo, diminuire gli ostacoli e poi rendere attrattivo l'ambiente. Indi si deve proporre al bambino un'attività piacevole, qualcosa di interessante da fare, che lo inviti ad intraprendere altri esperimenti. Gradualmente si può poi togliere il bambino dalla sua torpida pigrizia, portandolo a interessarsi di qualcosa che desti in lui il desiderio di lavorare, conducendolo dall'inerzia all'attività, da quello stato di paura che spesso si traduce in morbosi attaccamenti, alla gioia della libertà e della conquista della vita. Sarà opportuno ora enunciare alcuni principi validi per l'educazione del bambino nei primi 2 anni di vita. Subito dopo la nascita, il bambino o la bambina deve restare il più possibile con la madre e l'ambiente non deve presentare ostacoli al suo adattamento. Tali ostacoli sono soprattutto la differenza di temperatura in confronto a quella a cui era abituato nel periodo prenatale, l'eccesso di luce e l'eccesso di rumore perché egli o ella è appena uscita da un luogo di perfetto silenzio e buio completo. Deve essere mosso e maneggiato con ogni cura, non abbassato di colpo per essere immerso nel bagno, né vestito con gesti rapidi e ruvidi. Si ricordi che ogni gesto di chi maneggia un neonato o una neonata è rozzo, data la sua estrema delicatezza, tanto fisica che psichica. La cosa migliore sarebbe non vestire il neonato, ma tenerlo in una stanza abbastanza calda e senza correnti d'aria e trasportarlo su un materassino morbido in modo che resti in una posizione simile a quella prenatale. Oggi si osserva la tendenza a trattare il neonato con la stessa cura e le stesse premure, anzi ancora più attente e meticolose, che si sogliono dedicare a un ferito grave. Oltre alle precauzioni igieniche e alla necessaria protezione, la madre e il bambino si dovrebbero considerare come due organi di uno stesso corpo, ancora vitalmente connessi dal magnetismo animale, che hanno bisogno per un certo tempo di isolamento e di attente cure sotto ogni aspetto. Parenti e amici non dovrebbero baciare e coccolare il bambino, né le infermiere dovrebbero toglierlo dal fianco della madre. Superata questa prima fase, il bambino si adatta facilmente al mondo in cui è entrato. E comincia ad avviarsi sul cammino dell'indipendenza. La sua prima conquista è l'uso dei 5 sensi, un'attività puramente psichica perché il suo corpo è ancora inerte. Gli occhi svolgono un'intensa attività. Attraverso l'occhio egli non solo riceve impressioni, ma le va cercando come un attivo ricercatore. E a differenza degli animali inferiori, che hanno un campo di osservazione limitato e sono attratti da taluni oggetti solo se guidati dal loro comportamento, egli non ha limiti e abbraccia l'intero ambiente che lo circonda, incorporandolo nella sua psiche. Ha bisogno del mondo, di tutto il mondo che gli sta intorno, per plasmare su di esso le proprie capacità di adattamento. È un errore isolare il bambino nella cosiddetta nursery, una specie di prigione con la bambinaia per sola compagna, e farlo dormire il più a lungo possibile come un invalido. La bambinaia non parla molto con lui, perché è buona norma igienica tenere la bocca coperta. Come potrà allora il bambino imparare a parlare? Inoltre la bambinaia proviene da un ambiente sociale diverso da quello del bambino, per cui egli non potrà assorbire da lei il linguaggio che gli occorre. I bambini ricchi, nei paesi più civili del mondo, sono i bambini peggio allevati e peggio trattati sotto questo rispetto. Poiché godono ben poco la compagnia della madre o delle sue amiche, sono lasciati nelle mani di bambinaie fredde e competenti, passeggiano ben tappati sotto i mantici delle loro carrozzine e non lasciano passare né il sole né il freddo. E insomma, per rallegrarsi la vista non hanno niente di più interessante che la faccia di una bambinaia. E così o diventano apatici e ottusi, o reagiscono con crisi di pianto e di capricci perché soffrono mentalmente la fame. O almeno una vera e propria denutrizione mentale. Ben più felice è il bambino che va dappertutto con la madre, per strada e al mercato, in tram e in autobus, ascoltando e guardando, accumulando impressioni di enorme interesse e sicuro nelle mani della sua protettrice naturale. Capitolo 7. Il mistero del linguaggio. Il linguaggio è l'espressione di un accordo fra un gruppo di uomini e può essere compreso solo da quelli che hanno convenuto di rappresentare determinate idee mediante determinati suoni. Altri gruppi hanno adottato altri suoni per rappresentare le stesse idee e gli stessi oggetti e così il linguaggio diviene una barriera che separa un gruppo dall'altro, mentre accomuna i membri di uno stesso gruppo. è lo strumento necessario per lo sviluppo di un pensiero comune e si è fatto sempre più complesso via via che aumentava la complessità del pensiero umano. I suoni usati per comporre le parole sono in numero limitato, ma si possono unire in diversi modi per formare i vocaboli. E questi vocaboli si raggruppano a loro volta in diversi modi a formare le frasi che esprimono i pensieri. Una legge misteriosa vuole che per ogni impresa gli uomini si uniscano e si accordino. E per questo accordo devono usare il linguaggio, la più astratta delle cose, una specie di superintelligenza. Alcuni antichi linguaggi divennero così complicati e così rigidamente formali che finirono per morire. E nuove lingue da essi derivate ne presero il posto nell'uso comune. Ma per quanto a noi oggi sembri difficile acquistare una perfetta conoscenza del latino classico, gli schiavi della Roma imperiale dovevano pur parlarlo. E così i contadini che aravano i campi della penisola italica, anche se nessuno glielo aveva insegnato. I bambini di 3 anni dovevano trovarlo facile da capire e da imparare. Questo mistero oggi ha suscitato l'interesse degli studiosi. E psicologi e psicologhe, considerando lo sviluppo della favella nei bambini, affermano che il linguaggio si sviluppa, non si impara. Il linguaggio sorge naturalmente come creazione spontanea e il suo sviluppo segue leggi determinate con una regolarità che non può fare a meno di stupirci, raggiungendo in certe epoche determinati livelli. Questo vale inoltre per tutti i bambini, sia che il linguaggio del loro popolo sia semplice o complesso. Vi è per tutti i bambini un periodo in cui pronunciano solo sillabe, poi un altro in cui pronunciano parole di più di una sillaba. Infine sembra che afferrino tutta la grammatica e la sintassi, genere, numero, caso, modo e tempo. Il bambino, che vive in un ambiente colto, impara a usare correttamente la sua lingua nello stesso tempo in cui il bambino povero impara le sue 4 parole. I suoni che compongono i vocaboli vengono emessi per mezzo di taluni meccanismi fisici come la lingua, la gola, il naso e di certi muscoli facciali. Sembra che la struttura di questi meccanismi sia perfettamente adatta solo per parlare la lingua materna. Per quel che riguarda invece le lingue straniere, gli adulti talvolta non riescono neppure a percepirne tutti i suoni e tantomeno poi pronunciarli alla perfezione. Solo il bambino sotto i 3 anni può costruire il meccanismo del linguaggio e può parlare qualsiasi numero di lingue se sono usate nel suo ambiente alla nascita. Questo lavorio comincia nelle tenebre del subconsciente e qui si sviluppa e si fissa in permanenza. Ogni modifica avviene a profondità non facilmente accessibili all'osservazione degli adulti, ma se ne possono scorgere e controllare alcune manifestazioni esteriori, che sono ben chiare e significative e comuni a tutta l'umanità. Se ne può concludere che i suoni di ogni linguaggio mantengono la loro purezza durante le successive età della vita, e inoltre che la mente subconscia del bambino assorbe con la stessa facilità le cose semplici e quelle più difficili. Nessun bambino si stanca di imparare a parlare. Il suo meccanismo gli fornisce il linguaggio nella sua completezza, pressappoco come il meccanismo di una pellicola fotografica riproduce con la stessa facilità sia un gruppo di persone che le sembianze di una persona sola. La pellicola registra l'immagine in una frazione di secondo, mentre ci vorrebbe tempo e fatica per disegnare il ritratto di una persona e 10 volte più fatica per disegnarne 10. Un'altra interessante analogia è che la pellicola fotografica viene impressionata e sviluppata al buio. Solo dopo che sia fissata può essere esposta alla luce, e allora è inalterabile. Altrettanto avviene per il meccanismo del linguaggio nel fanciullo. Comincia nelle oscure profondità del subconscio e ivi si sviluppa e si fissa, e solo allora si può vederlo apertamente. Osservazioni pazientemente condotte e accuratamente registrate giorno per giorno dopo la nascita hanno stabilito alcuni fatti che costituiscono delle vere e proprie pietre miliari. Nell'interno del bambino avviene un misterioso sviluppo di enorme importanza, mentre le manifestazioni esterne corrispondenti sono assai esigue e si nota una notevole sproporzione fra l'attività interiore e i suoi segni visibili. Se si è constatato che non si tratta di un progresso regolare e graficamente lineare, ma a sbalzi, sicché fra la conquista delle sillabe e quella delle parole possono trascorrere dei mesi in cui sembra che non si compia alcun passo avanti. Alla conquista delle prime parole sembra che ancora una volta il bambino segni una lunga battuta d'arresto, mentre nella sua vita interiore continua un costante progresso, il quale improvvisamente si manifesta in ciò che gli psicologi chiamano un fenomeno esplosivo. In tutti i bambini e alla stessa epoca compare improvvisamente un fiume di parole, tutte perfettamente pronunciate. In 3 mesi tutti arrivano ad usare con facilità frasi idiomatiche e particolarità linguistiche. E questo avviene alla fine del secondo anno di età per i bambini normali di ogni razza. Questi fenomeni continuano dopo i 2 anni. Nello stesso modo esplosivo compare la capacità di usare con grande maestria frasi e periodi complessi, i modi e i tempi del verbo e le più difficili forme sintattiche, finché l'espressione del linguaggio risulta completa. Solo a questo punto il tesoro lungamente preparato dalla mente subconscia viene offerto alla coscienza e il bambino fa pienamente uso di questa sua nuova capacità, chiacchierando senza sosta e sempre in forma corretta. I 2 anni e mezzo sembrano essere la linea di demarcazione dell'intelligenza, ossia il fenomeno in cui l'uomo appare formato. In seguito lo sviluppo non è più esplosivo, ma il bambino continua ad arricchire il suo vocabolario se si trova in un ambiente di persone colte e comunque lo amplia anche in circostanze meno favorevoli. Alcuni studiosi belgi osservarono che se a 2 anni e mezzo un bambino conosceva solo 200 parole, a 5 ne conosceva e ne usava migliaia, e tutto senza maestri. Dopo aver imparato tutto questo da solo, lo si manda a scuola perché un altro gli insegni l'alfabeto. È necessario prendere in considerazione anche altri fatti che riguardano i meccanismi del linguaggio. Nella corteccia cerebrale esistono 2 centri, uno auricolare per la percezione dei suoni, l'altro motorio per la produzione del linguaggio. Il centro auricolare o ricettivo è il rapporto con quella misteriosa parte della psiche in cui avviene lo sviluppo inconscio del linguaggio e con l'orecchio. L'organo dell'udito si completa già prima della nascita e ha la forma di una specie di arpa con 64 corde poste in ordine di lunghezza, in modo da formare una conchiglia per economizzare spazio. L'orecchio non può captare tutti i suoni dell'universo, poiché dispone di sole 64 corde, ma su di esse si può suonare una musica molto complessa. Questo meccanismo è in grado di trasmettere un linguaggio completo, con tutte le sue delicate sfumature di tono e di accento. Il fatto curioso è che, secondo gli psicologi, il senso più lento a svilupparsi è l'udito. Intorno al neonato si possono fare ogni sorta di rumori senza suscitare in lui alcuna reazione. Ma questo avviene perché tali centri cerebrali sono predisposti per recepire il linguaggio e l'intero meccanismo risponde solo alla parola parlata, sicché col tempo si produrrà il meccanismo motorio destinato a riprodurre i suoni percepiti. Se non fosse stato predisposto questo speciale isolamento dei centri auricolari, ed essi fossero stati fin dall'inizio liberi di percepire qualsiasi suono, il bambino nato in una fattoria rimarrebbe impressionato dai rumori predominanti nella vita rurale e comincerebbe a belare, grugnire, occhiocciare, mentre il bambino nato vicino a una ferrovia riprodurrebbe il fischio e lo sbuffare dei treni. L'uomo impara a parlare perché la natura ha costruito e predisposto questi centri espressamente per il linguaggio umano. Si ha notizia di qualche caso, debitamente dimostrato, di bambini lupo, ossia neonati abbandonati per una ragione o per l'altra nella giungla, che in qualche modo miracoloso riuscirono a sopravvivere. Questi bambini, pur avendo intorno ogni sorta di suoni prodotti da animali o uccelli, rimasero completamente muti. Non avevano infatti udito alcun linguaggio umano, che solo poteva mettere in moto il meccanismo del linguaggio parlato. L'umanità si distingue per questa sua facoltà non di possedere il linguaggio, ma di possedere il meccanismo per creare il linguaggio. In quelle misteriose plaghe del cervello esiste un Dio, un ego addormentato, che sembra svegliarsi alla musica della voce umana, divino appello che pone in vibrazione certe fibre. Ogni gruppo umano ama la musica, crea la sua propria musica e il suo linguaggio e risponde a questa musica con movimenti del corpo. Questa musica assume forma di parole, ma le parole non hanno alcun senso in se stesse, finché una convenzione umana non attribuisce loro un particolare significato. A 4 mesi, alcuni dicono anche prima, il bambino si accorge che questa musica misteriosa che lo circonda e lo commuove così profondamente proviene da una bocca umana. Le labbra si muovono per produrla. Si pensi con quanta intensità un bambino osserva le labbra. In questo lavorio interviene già la coscienza, benché il movimento sia stato preparato inconsciamente. Ora sorge l'interesse consapevole che suscita e porta avanti una serie di acute e zelanti ricerche. Dopo aver attentamente osservato per 2 mesi, il bambino produce i suoi primi suoni. Improvvisamente esce a dire da, ba, ba e ma, ma, ma, ossia sillabe articolate. Alla fine del 10° mese ha scoperto che il linguaggio non è semplicemente una musica da imitare il più esattamente possibile. Le parole che gli sono rivolte hanno un significato. Così, alla fine del 1° anno sono avvenute 2 cose. Nelle profondità dell'inconscio egli ha compreso il linguaggio e ai livelli più alti della coscienza lo ha creato, anche se finora solo balbettando e limitandosi a ripetere i suoni e le loro combinazioni. Poi pronuncia le sue prime parole intenzionali, sempre balbettando ma con un significato cosciente. Qui un grande conflitto sorge nel bambino, fra la coscienza e il suo meccanismo. È un'epoca in cui egli sente sorgere in sé una quantità di idee e sa che gli altri lo capirebbero se solo possedesse il linguaggio per esprimerle. Questa è la prima frustrazione della sua vita e lo spinge verso la scuola che esiste nel suo subconscio, stimolandolo a imparare. È l'impulso conscio che attua questa affrettata acquisizione del linguaggio e il suo maestro interiore lo spinge a rivolgersi agli adulti che stanno parlando fra loro. Non con lui. L'impulso lo spinge ad apprendere il linguaggio nella sua forma corretta, benché molti adulti, ignorando le sue vere esigenze, gli parlino solo un linguaggio infantile, senza dargli così alcun aiuto. Dobbiamo renderci conto che il bambino capisce e che possiamo parlargli grammaticalmente e aiutarlo ad analizzare la struttura della frase. Capita talvolta che il bambino di 1 o 2 anni abbia qualche cosa da dire che gli sembra estremamente necessario e non riesca a trovare le parole adatte. Così si agita e arriva talora a dei veri accessi di furore che si sogliono attribuire al peccato originale. Povero piccolo uomo o donna che lavora per procurarsi l'indipendenza. Vedersi così frainteso. Il furore è l'unico modo di esprimersi che gli resta quando gli mancano i mezzi adatti. Verso i 18 mesi, il bambino si è reso conto che ogni oggetto ha il suo nome, sicché fra le parole che ha imparato può ora scegliere i sostantivi, soprattutto quelli concreti. È questa per lui una cosa importante perché ora può chiedere quello che desidera e concentra in una sola parola un'intera frase, sicché la madre o l'insegnante dovrebbero dedicare tutta la loro affettuosa premura a interpretarlo, per calmare la sua piccola anima tormentata. Per fare un esempio, un bambino spagnolo era in braccio alla madre durante un picnic. Quando per il caldo estivo la madre si tolse il soprabito e se lo mise sul braccio. Immediatamente il bambino cominciò ad agitarsi, balbettando to palda, e poiché nessuno capiva cosa volesse dire con to palda, si diede a urlare violentemente. Suggerì allora alla madre di rimettersi il soprabito e di colpo il bambino si calmò e cominciò a sorridere con gridolini di gioia. Le parole misteriose erano abbreviazioni di paltò e espalda. Il senso dell'ordine nel bambino era stato offeso dalla posizione sbagliata del soprabito sul braccio della madre. Un tale disordine era più di quanto egli potesse sopportare. Un altro esempio ci mostra quanto un bambino di 1 anno e mezzo possa comprendere un'intera conversazione. Quattro o cinque persone stavano parlando di un racconto per bambini e conclusero con l'osservazione: la storia finisce felicemente. Ma il bambino non era d'accordo su questo punto e cominciò a gridare: Lola, Lola! Si pensò che volesse la sua bambinaia, la stesse chiamando per nome, ma non servì a nulla. E il piccolo continuava ad agitarsi e a disperarsi finché riuscì in qualche modo ad afferrare il libro e ci mostrò sul retro della copertina la figura di un bambino che piangeva. Come poteva la storia finire felicemente se il bambino piangeva? La parola Lola era un tentativo di pronunciare lo spagnolo llora, che significa piange. Di qui si capì che il bambino aveva seguito intelligentemente tutta la conversazione. Lo stato di agitazione è parte integrante della vita dei bambini, e ciò è dovuto largamente all'incomprensione degli adulti. In realtà esiste una ricchezza interiore che cerca di esprimersi e ci riesce solo attraverso grandi difficoltà dovute all'ambiente non meno che alle limitazioni proprie del bambino. Alcuni bambini sono più forti di altri, alcuni trovano intorno a sé un ambiente più favorevole e questi si avviano diritti verso l'indipendenza, che è appunto la via dello sviluppo normale, senza regressioni. Lo stesso avviene per la conquista del linguaggio, una maggiore indipendenza, che arriva alla libertà d'espressione, ma presenta anche, parallelamente, i suoi pericoli di regressione. In questo periodo, gli scontri con determinati ostacoli si incidono profondamente nella psiche, perché tutte le impressioni vengono registrate in modo permanente. Gli adulti spesso soffrono di difficoltà d'espressione che vanno dall'esitazione e dalla timidezza alla balbuzie. E questi difetti hanno origine in quel periodo dell'infanzia in cui i meccanismi del linguaggio si vanno organizzando. Queste regressioni si verificano a causa della sensitività del bambino. Come è sensibile a ciò che lo aiuta a progredire, così è sensibile agli ostacoli che sono troppo forti per lui. E tale eccessiva sensibilità resterà in lui per tutta la vita come un difetto. Ogni forma di violenza, tanto nel linguaggio che nel gesto, arreca un danno irreparabile al bambino. Un'altra deviazione della sensibilità è provocata dallo sforzo, calmo ma determinato, di alcuni adulti che pretendono di reprimere le manifestazioni esteriori dei bambini. Le madri che possono permettersi ciò che si usa a chiamare una bambinaia ben addestrata per i loro bambini dovrebbero soprattutto badare a che ella non intervenga continuamente con i suoi non fare questo, non devi fare quello, col risultato che le forme di impedimento della favela sono molto comuni fra gli aristocratici, i quali non mancano di coraggio fisico, ma esitano o balbettano penosamente nel parlare. Molte paure insensate e tic nervosi che si riscontrano negli adulti, si possono far risalire a qualche atto di violenza subito dal bambino. Perciò è importante per l'umanità che questo periodo della vita infantile sia attentamente studiato. L'insegnante dovrebbe intraprendere questa operazione di esplorazione, cercando di penetrare nella mente del fanciullo, così come lo psicanalista penetra nella mente dell'adulto. È necessario un interprete del bambino e del suo linguaggio, e la mia esperienza in questo campo mi insegna che i fanciulli si affezionano moltissimo al loro interprete, poiché si rendono conto che in lui possono trovare aiuto. Questo affetto è ben diverso dalla superficiale simpatia che i bambini dimostrano a chi li carezza e li vizia. L'interprete è per il bambino una grande speranza, poiché gli apre una porta che il mondo ha chiuso. Con questo soccorritore egli stringe un rapporto intimo, ben più profondo del semplice affetto, perché ne riceve aiuto e non solo consolazione.